vendetta ora te che no ora è capito grida quel sangue vendetta vendetta ancora grida quel sangue grida vendetta ora te che mora Oh,